Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io trovo l'accusa di essere arrogante un'accusa che deve farmi riflettere dal punto di vista personale. Confesso che tante volte quando leggo i giornali non mi riconosco in quei personaggi lì. Evidente segno che evidentemente anch'io tiro fuori probabilmente un'immagine che non è quella mia, però in questo momento sono totalmente disinteressato a quello che la gente pensa di me. Cioè, io sono molto interessato a che l'Italia riparta. Ecco, quindi vi sia chiaro, care ascoltatrici e cari ascoltatori, comunque lo si veda Renzi, che è arrogante, non gliene importa nulla, insomma, questo è il concetto, lo ha detto nell'intervista oggi al direttore del Resto del Carlino. A noi invece interessa, come sapete, a me, a voi e naturalmente agli ospiti che poi seguiranno, stare sulle notizie del giorno, le notizie più importanti. Poi sapete, coloro che già seguono Effetto Notte da lunghissimo tempo e coloro che si aggiungono milioni e milioni ogni sera, che il venerdì è l'ultima puntata della settimana ed è la puntata dove, fra le altre cose, c'è un bilancio della politica della settimana. I temi centrali ne abbiamo parlato in questi giorni, quali sono le trivelle, la riforma costituzionale e la scomparsa di Gianroberto Casaleggio. Poi ci occuperemo anche di questa storia molto particolare, che emblematica dei rapporti tra Germania e Turchia, a proposito di un via libera della cancelliera Merkel a un processo contro un comico tedesco che ha scritto una poesia satirica sul presidente turco Erdogan. Veramente una storia particolare, quindi seguitela. Poi ci collegheremo anche con Lesbo, con la nostra inviata, perché è atteso domani il Papa, quindi visto come un grande evento questo, non solo simbolico. Ci sarà il meteo come tutti i venerdì, sapremo che fine settimana ci aspetta. A voi chiedo questa sera, come argomento da sottoporvi per le vostre riflessioni, e potete poi scrivere sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, alla quale potete aderire senza indugio, e poi anche il numero 349-238-6666, che è il numero per gli sms e per i whatsapp. Vi chiedo questo: dopo la scomparsa di Gianroberto Casaleggio, chi vedreste bene come leader, donna o uomo che sia, del Movimento 5 Stelle? Perché a un certo punto si aprirà anche questa questione, nel senso, è già aperta, probabilmente si prenderà giustamente tempo. 349-238-6666 per la vostra risposta, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto sentiamo quali sono le notizie principali della giornata. Immigrazione, l'Italia propone all'Unione Europea il Migration Compact, Renzi esclude un'invasione, poi avverte Vienna, se si chiude il Brennero non faremo finta di nulla. Il referendum sulle trivelle, anche la CEI in campo dice andate a votare, ira del Movimento 5 Stelle su Napolitano e Renzi, è scandaloso l'invito a non partecipare, e il Presidente del Consiglio replica riguarda la vita di 11.000 lavoratori. L'assassinio di Regeni, Mattarella sottolinea non dimentichiamo la vita orrendamente spezzata di Giulio Regeni, e il New York Times lo definisce vittima della repressione di Al-Sisi e parla di Francia vergognosa che firmerà lunedì con l'Egitto un contratto da più di $1 miliardo in armi. I rapporti tra Germania e Turchia, Angela Merkel autorizza il processo contro il comico tedesco che aveva ironizzato sul presidente turco Erdogan. L'inchiesta di Potenza, l'ammiraglio De Giorgi dai magistrati, contro di me dice un corvo. Il caso Uva, tutti assolti, carabinieri e poliziotti imputati per la morte dell'artigiano di 43 anni deceduto dopo un fermo per schiamazzi. Tenerife, due italiani dispersi e un ferito nel crollo di una palazzina. La frana sulle Apuane, il 28 aprile sciopero dei lavoratori del marmo, stop del comparto deciso dai sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL. Sport, la campionessa campana Irma Testa, 19 anni, la prima pugile azzurra che si qualifica per le Olimpiadi. Partiamo quindi dall'emergenza immigrazione, ed è davvero il caso di parlare ancora una volta di emergenza, con i numeri di migranti in arrivo in Italia che sono in aumento esponenziale, 6.000 solo negli ultimi 5 giorni. Il Presidente del Consiglio Renzi avverte Vienna, non staremo a guardare di fronte alla chiusura del Brennero, ma anche all'Europa avanza una richiesta, un patto per la gestione comune dei flussi in arrivo, una Migration Compact, dice. Il Brennero è uno strumento di lavoro ed è soprattutto un simbolo, quindi noi siamo pronti a fare la nostra parte, però dico anche che non staremo a far finta di niente se qualcuno intenderà violare le regole europee. Risponde pacato ma risoluto il Presidente del Consiglio e chiarisce che l'Italia non resterà a guardare. Poco chiara la posizione di Vienna, da dove arrivano segnali contrastanti. Il Presidente austriaco Fischer ha definito false e fuorvianti le voci sulla chiusura dei confini tra Austria e Italia. I fatti però sembrano dargli torto, se è vero che un'altra barriera potrebbe sorgere al confine con l'Ungheria. In attesa di chiarimenti precisi, oggi Bruxelles ha sollecitato Vienna a specificare quali siano i provvedimenti adottati e quelli che intende adottare. Poco fa la Commissione ha fatto sapere di aver ricevuto una lettera dal governo austriaco senza specificarne il contenuto. La Commissione ha ricevuto anche il documento ufficioso da parte dell'Italia con la proposta di un piano, il Migration Compact, un accordo con i paesi di origine e di transito che richiede anche un forte impegno finanziario da parte dell'Unione, che potrebbe essere assolto attraverso una redistribuzione delle risorse del budget europeo, ma anche con Eurobond. 6.000 i migranti arrivati sulle coste italiane in 5 giorni e, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, i numeri sono destinati ad aumentare. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sentiamo Renato Carlantoni, il sindaco di Tarvisio in provincia di Udine, oggi intervistato da Simone Spezia e Effetto Giorno. Ho incontrato recentemente il collega del comune limitrofo austriaco che mi ha detto che ha ricevuto la visita di alcuni tecnici del Ministero dell'Interno austriaco che stanno predisponendo delle sedi che dalla loro parte confinare sono ancora attive, sia per un'eventuale postazione per le forze dell'ordine, sia per un'eventuale stanza più grande per un centro di identificazione di persone intercettate. Quindi tutto lascia presagire che comunque la predisposizione verso un'eventuale sospensione di Schengen da parte dell'Italia ci sia. E intanto dall'altra parte d'ingresso in Europa la Grecia, arriva domani Papa Francesco e ne parleremo qui Effetto Notte, vi dicevo, collegandoci con la nostra inviata. Ma c'è anche un altro fronte, intervenire anche in Libia, dice intanto l'alta rappresentante per la politica estera europea, Federica Mogherini. Parla dal canale di Sicilia l'alto rappresentante della politica estera europea, ospite della nave militare italiana Cavour. Proviamo frustrazione e vergogna per i muri che si alzano, ma siamo orgogliosi di un'Italia e di un'Europa che qui salvano vite umane, dice Federica Mogherini. Il pensiero va alla vicina Lampedusa, meta di chi salpa dalla Libia, ed è allora Tripoli, il nuovo governo di al-Sarraj, fa capire Mogherini, che può giocare un ruolo fondamentale. Se l'esecutivo di Tripoli ce lo chiede, annuncia l'esponente della Commissione europea, proporrò di allargare la missione navale alle acque di quel paese. Quanto a Vienna, dice ancora Mogherini, auspico che l'Austria non alzi muri, ma mostri il volto dell'accoglienza come ha fatto l'estate scorsa davanti al flusso di migranti. Dalla Libia intanto notizie di un nuovo attacco suicida a Bengasi contro l'esercito regolare. La firma sarebbe quella dell'ISIS, 50 le vittime, a darne conto la società americana che monitora l'attività dei jihadisti su internet. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E passiamo al referendum sulle trivelle. Anche la CEI, la conferenza dei vescovi in campo, dice andate a votare, c'è l'ira del Movimento 5 Stelle su Napolitano e Renzi. Il Movimento 5 Stelle accusa è scandaloso l'invito a non partecipare e il Presidente del Consiglio replica riguarda la vita di 11.000 lavoratori. Quindi comunque sono le ultime ore queste di campagna referendaria, poi scatterà il silenzio preelettorale. Dalle 23 domenica il voto sulle trivelle quindi. Fra polemiche e ultimi appelli si chiude la campagna per il referendum sulle trivelle, per il quale sono quasi 51 milioni gli elettori chiamati alle urne domenica dalle 7 alle 23. Voluto da 9 regioni, il quesito chiede di abrogare la norma che permette alle piattaforme che si trovano entro le 12 miglia dalla costa di continuare l'estrazione di gas e petrolio anche dopo la scadenza delle concessioni fino all'esaurimento dei giacimenti. Perché il referendum sia valido dovrà essere superato il quorum del 50% più uno degli elettori. Più che le ragioni del sì e quelle del no a far discutere nelle ultime ore è l'invito all'astensione arrivato da Renzi, che ha definito la consultazione una bufala. Con lui è buona parte della maggioranza. Contro il Premier si schierano invece opposizioni e minoranza Dem, mentre un appello a votare per il referendum oggi arriva anche dalla Conferenza Episcopale Italiana. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi ce ne occupiamo nel bilancio della politica della settimana. Vi chiedo però di scrivere come riflessione di questa sera chi vedreste come leader, prossimo leader del Movimento 5 Stelle. Non mi scrivete sulle trivelle, anche se ne parliamo, perché ci vuole la par condicio e quindi non posso leggere un messaggio sì, l'altro sì o no, l'astensione eccetera. Mi raccomando, quindi scrivete sul prossimo possibile leader del Movimento 5 Stelle, 349-238-6666, il numero per i messaggi WhatsApp, oppure comodamente per voi la pagina Facebook di Effetto Notte. Arriva il nuovo codice per gli appalti, più semplice contro la corruzione, così dice il governo. Via libera definitivo del Consiglio dei Ministri al nuovo codice degli appalti, un altro passo in avanti per sbloccare l'Italia, dice il Premier Matteo Renzi, sottolineando l'importanza di norme più semplici per combattere la corruzione. Il ministro delle Infrastrutture, Graziano Del Rio, parla di rivoluzione della normalità. Un albo dei collaudatori, un albo delle imprese. E ritorna centrale anche la programmazione delle opere. Si archivia la legge obiettivo, dove tutto era urgente e prioritario, per cui abbiamo messo in campo progetti per miliardi e miliardi mai realizzati, e torniamo a una sana e pragmatica concretezza. 200 articoli in tutto, tra i punti cardine del provvedimento il ruolo centrale conferito all'ANAC, nuove regole sulla qualificazione, l'adozione del Building Information Modeling e un diverso rapporto con il privato. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E arriviamo a questo punto all'inchiesta sul petrolio in Basilicata. Oggi è toccato farsi sentire dai magistrati all'ammiraglio De Giorgi. Sono fiducioso che la magistratura individui chi è il corvo e i propalatori di queste notizie, che sono false. Così l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, dopo l'interrogatorio davanti ai PM di Potenza, ha respinto le accuse contenute nel dossier anonimo fatto recapitare qualche giorno fa, tra l'altro, alla Procura di Potenza. Questo dossier, ha detto il capo di Stato Maggiore della Marina, che ha confermato di non volersi dimettere, è già stato fatto circolare anni fa ed è stato già analizzato dalle autorità giudiziarie, senza dare esito ad alcun risultato e a nessuna prova di fondatezza. Evidentemente c'è qualcuno, qualche corvo, a cui io do molto fastidio, insomma. De Giorgi ha reso dichiarazioni spontanee ai pubblici ministeri di Potenza, ha fatto sapere il suo avvocato Pietro Nocita, precisando di aver presentato un'istanza di archiviazione. L'unica accusa nei confronti dell'ammiraglio, ha aggiunto Nocita, è quella di abuso d'ufficio. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'assassinio di Giulio Regeni, è tornato a parlarne il presidente Mattarella, che sottolinea: non dimentichiamo la vita orrendamente spezzata di Giulio Regeni. E intanto il quotidiano americano New York Times lo definisce vittima della repressione di Al-Sisi, quindi dichiara la responsabilità del governo Al-Sisi e parla di una Francia che si dovrebbe vergognare per il silenzio e per il fatto che il presidente Hollande lunedì firmerà con l'Egitto un contratto da $1 miliardo in armi. E poi ci sono i rapporti tra Germania e Turchia. Angela Merkel ha autorizzato il processo contro il comico tedesco che aveva ironizzato con una poesia sul presidente turco Erdogan. Poi ne parleremo ampiamente qui a Effetto Notte su questa vicenda, che ci dice molto nei rapporti, quali sono le priorità nei rapporti tra Germania e Turchia. Restiamo all'estero, ancora nessuna notizia di due italiani dopo il crollo di una palazzina ieri a Tenerife, in Spagna, nelle Canarie. Un nostro connazionale è rimasto ferito, ma di altri due, ha fatto sapere la Farnesina, non ci sono notizie e sono considerati per il momento dispersi. Il caso Uva, tutti assolti, i carabinieri e i poliziotti imputati per la morte dell'artigiano detenuto dopo un fermo per schiamazzi. Si è chiuso in questo modo il processo sul caso di Giuseppe Uva, artigiano di 43 anni, morto in ospedale il 14 giugno 2008 dopo essere stato fermato per schiamazzi notturni dalle forze dell'ordine, condotto in caserma e poi ha trascorso la notte sotto custodia. Un decesso, secondo i suoi familiari, provocato dalle percosse e dalle manganellate inflitte all'uomo dagli agenti che lo tenevano in custodia. Di diverso avviso sono stati i giudici della Corte Assise di Varese, che hanno disposto una sentenza di assoluzione per gli 8 imputati. E sentiamo qual è stato il grido di dolore dei familiari dell'operaio quando hanno sentito la sentenza. A tutti i vostri parenti deve succedere, a tutti i vostri parenti, maledetti! E arriva la circolare dell'INPS, che completa il percorso avviato dal Jobs Act per concedere il congedo alle donne vittime di violenza di genere. Mancava questa cosa, si attendeva da 9 mesi. Oggi l'istituto l'INPS ha diramato la circolare, che riguarda proprio l'indennità che spetta alle dipendenti del settore privato. Un problema molto diffuso, come sapete, se ne parla spesso qui Effetto Notte. Si considera che una donna su 3 è stata vittima di violenza nel corso della sua vita. Una donna su 3. Per chiudere lo sport, per la prima volta una pugile italiana parteciperà alle Olimpiadi. La 19enne Irma Testa, under 20 più forte del mondo, infatti ha ottenuto la qualificazione per i Giochi di Rio, ha conquistato la finale del torneo continentale di qualificazione olimpica e lei naturalmente felicissima e orgogliosa e dice: la boxe è uno sport da donne. Ci fermiamo per il momento per aggiornare chi sta viaggiando, però volevo già guardare i vostri messaggi. La domanda: quale vedreste prossimamente come leader del Movimento 5 5 Stelle, a un certo punto bisognerà pur decidere di candidare qualcuno per Palazzo Chigi, no? Se quella è l'ambizione. Allora, Federica dice: il popolo italiano sarebbe il candidato. Dice: cara Roberta, se vuoi chiederci il ruolo che vorremmo per Di Maio, la domanda è chi vorreste come candidato premier? Di Maio, dice, Beppe e Davide Casaleggio come garanti per il direttorio. Io vorrei il direttorio di almeno 10 persone e aggiungerei assolutamente una serie di nomi, adesso però non sto Federica ad elencare. Cristiano parla di trivelle, quindi non ti posso nominare. Enzo, a me piace l'attuale triade Di Maio, Battista, Fico, di leader disastrosi, negli ultimi anni ne abbiamo già visti troppi. Poi molti altri messaggi, continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte e col numero 349-238-6666. Intanto ringrazio Mauro per il suo WhatsApp, apprezzo effettivamente in questo caso il tuo messaggio, non c'è bisogno di par condicio, grazie. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, con me la vostra gentile attenzione, i vostri messaggi. Questa sera vi chiedo di esprimere la vostra preferenza su un possibile candidato leader del Movimento 5 Stelle. Diceva Federica, una delle ascoltatrici, allora chiediamo il candidato premier, perché dice in realtà il Movimento 5 Stelle non ha un capo, però a un certo punto uno che li rappresenti tutti bisognerà pur sceglierlo. Sergio dice: il Movimento 5 Stelle non ha un leader, non lo capirete mai, così dice Sergio. Danilo invece dice: un leader che dopo due mandati al massimo se ne vada secondo i dettami del primo V-Day, ricordate quello di Grillo. Quindi per la vostra risposta su possibile candidato premier che vedreste bene del Movimento 5 Stelle, donna o uomo che sia, 349-238-6666 il numero per i messaggi, per i WhatsApp, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte per voi lì costantemente presente. Allora, prima di cominciare a fare il bilancio della politica della settimana, come sempre qui consuetudine del venerdì qui Effetto Notte, vi ricordo, se avete acceso la radio adesso invece che puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti. Emergenza immigrazione, il governo italiano propone all'Unione Europea il Migration Compact, un patto per una gestione comune, quello che si chiede da tempo, del flusso dei migranti. Renzi esclude un'invasione in Italia, però dice con Vienna ci faremo sentire. Trivelle, si vota domenica, incognita sul quorum, la CEI in campo, la conferenza dei vescovi, andate a votare, dice la CEI. Il Presidente del Consiglio dice non è una votazione politica, intanto c'è l'ira del Movimento 5 Stelle su Napolitano che dice scandaloso che anche lui stia per l'astensione. Mattarella ricorda: non dimentichiamo la vita spezzata orrendamente di Giulio Regeni. Il New York Times dice: Regeni vittima della repressione di Al-Sisi, e dice Francia vergognosa che firmerà lunedì un contratto da 1 miliardo di armi con l'Egitto. Via libera dal CDM, dal Consiglio dei Ministri, al nuovo codice per gli appalti, e poi la circolare INPS che assicura congedi alle donne che subiscono violenza. Il caso Uva, il caso dell'artigiano di 45 anni che era morto dopo un fermo per schiamazzi, fermato dei carabinieri, assolti tutti dall'accusa di omicidio, carabinieri e poliziotti. In aula la famiglia urla maledetti. Caso Maugeri, PM durissimi, per il momento una richiesta di 9 anni per Formigoni, ex governatore della Lombardia. E poi a Tenerife 2 italiani dispersi e un ferito nel crollo di una palazzina. E poi la boxeur Campana che conquista per la prima volta, una boxeur femminile, le Olimpiadi. Irma Testa, si chiama la pugile. Adesso però passiamo alla politica, il bilancio della politica della settimana, che riguarda in sintesi questa settimana 3 temi: la morte del cofondatore del Movimento 5 Stelle Gian Roberto Casaleggio, il via libera del Parlamento, via libera definitivo alla riforma costituzionale, e poi il referendum di domenica, di dopodomani, sulle trivellazioni. Quindi ieri ci sono stati i funerali di Gian Roberto Casaleggio a Milano, il cui feretro è stato accolto in questo modo che sentirete tra poco dagli esponenti del Movimento 5 Stelle e dagli attivisti. Onestà, hanno ripetuto più volte, presente era naturalmente, a parte Beppe Grillo, vari esponenti del Movimento 5 Stelle, il direttorio formato da Di Battista, Di Maio, Ruocco, Fico e Sibilia. E sentiamo Di Battista cosa ha detto. Nulla di più bello al mondo che il giorno del tuo funerale, mentre esce la bara, i cittadini per bene di questo paese, che sono tanti, cantino onestà, onestà. Questa è la più grande vittoria di un uomo straordinario, che ha permesso a tutti quanti noi, lui insieme a Beppe, di combattere per il benessere generale, per l'interesse dei cittadini, coloro non hanno mai fatto i partiti di questo paese. Io sono fiero e orgoglioso di far parte del movimento, di aver conosciuto Gian Roberto e ripeto, non c'è nulla di più bello al mondo che i cittadini cantino onestà, onestà. Ora però che succede? Come si riorganizza? Come procede il movimento nel perseguire questo solco che ha creato Gian Roberto Casaleggio? Roberto Fico era stamattina a 24 mattino qui a Radio 24 e a proposito di voci su possibili elezioni in rete, perché giravano queste voci, rumors di voto in rete per nominare un nuovo leader, ha fermamente smentito. Non ci saranno elezioni, non ci sarà nessuna elezione online a breve termine. Noi lavoreremo insieme, compatti, e cercheremo di fare quello che stavamo facendo anche il giorno prima della morte di Gian Roberto Casaleggio, e quindi portare i nostri temi all'interno dei comuni d'Italia, Napoli, Roma, Torino, Bologna e così via, fare il nostro lavoro in Parlamento. E è chiaro che dovremo tutti lavorare 100 volte di più, perché Gian Roberto vale da 100 persone. Sì. Chiaramente era la mente strategica. Saluto Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Ciao Guido. Ciao, buonasera. In ogni caso, comunque, anche se al momento non ci dovessero essere queste elezioni via web, comunque il movimento si trova davanti alla necessità di trovare un compromesso, no, tra inevitabili spinte, esigenze organizzative che magari richiederebbero un vero partito, bisogna vedere, insomma, e il rispetto però delle istanze fondative del movimento nato in rete, con Grillo che sicuramente dovrà continuare a fare il garante ancora per un po', no, Guido, altrimenti c'è qualcuno che paventa il rischio balcanizzazione, guerre intestine, possibile secondo te, Guido? Ma hai detto bene, hai usato la parola compromesso. Guido, ti sentiamo, scusami, molto male, vogliamo sapere con chiarezza quello che dici e vediamo... Sì. Adesso mi sentite benissimo, meglio? Benissimo, non ti muovere da questo. Ecco, no, dicevo, hai usato bene una parola che è quella compromesso, che è quella a cui si trovano di fronte oggi il Movimento 5 Stelle e i grillini. E Grillo ha fatto poco tempo fa un cosiddetto passo laterale, si era messo un po' da parte, e adesso però la scomparsa... di Casaleggio fa fare i conti con realtà anche politica, quindi è chiaro che nel momento dell'emozione, nel momento in cui viene ricordato Casaleggio, diciamo, viene intonato anche questo coro, diciamo, onestà, onestà, ma questo, voglio dire, è il momento appunto dell'emozione. Adesso entra in campo la politica, il Movimento 5 Stelle è un movimento forte, che ha una forte rappresentanza in Parlamento, è accreditato anche per possibili vittorie in grandi città italiane alle prossime elezioni comunali, e quindi deve, diciamo, darsi una struttura di offerta politica ai cittadini italiani di tipo politico. E quindi appunto il compromesso tra quelle che sono le origini di un movimento nato in modo del tutto diverso rispetto a tutti gli altri partiti che abbiamo visto crescere negli ultimi decenni, ma che adesso deve fare i conti con un'organizzazione sul territorio, in Parlamento, deve fare i conti con la necessità di dare delle risposte politiche per l'affermazione del movimento. E quindi presto, diciamo, si cominceranno a fare questi conti, e quindi dovrà uscire una soluzione appunto di compromesso. Adesso poi io non so se prevarrà Di Battista, Di Maio, il direttorio, ma comunque dovrà essere trovata una soluzione per cercare di dare una risposta politica a un'esigenza di carattere politico, insomma, da qui non si scappa. Certo. Gianni da Bologna dice Di Maio e molti altri, anche Lorenzo da Bergamo dice è chiaro che Di Maio è l'uomo di maggior spessore, col quale il Movimento 5 Stelle acquisterebbe più forza. Poi un altro messaggio fra i tanti, c'è Maurizio, che ringrazio poi per i suoi complimenti, dice il padrone del Movimento 5 Stelle non è mai cambiato e non penso cambierà mai, è sempre solo Beppe Grillo. Comunque, al di là che effettivamente da più parti Guido Gentili venga evocato Di Maio, no? da diverso tempo, sì, oltre che da più parti, però il fatto che non abbia ancora ricevuto una legittimazione formale dai vertici non è un caso, o no? Sì, non è un caso, perché questa è una fase in cui mi sarei meravigliato del contrario, cioè che questa legittimazione eventualmente fosse arrivata subito e immediatamente. Quindi si passerà per una fase, secondo me, non molto lunga di riflessione, diciamo così, in cui si misureranno anche i rapporti di forze interne che ci sono al Movimento 5 Stelle. E poi al momento oggi Di Maio è la personalità che riscuote i maggiori consensi e che anche dal punto di vista dell'impatto esterno è quella che è accreditata per le maggiori possibilità di successo per un avvio di leadership. Poi è chiaro, ci sarà ancora ora che è scomparso Casaleggio, ci sarà ancora un ruolo molto importante secondo me di Beppe Grillo, ma ripeto, poi arriverà il momento in cui pensiamo per esempio alle prossime elezioni comunali, che sono i primi di giugno, quindi non lontanissime. Ecco, immaginiamo se il movimento riscuote le affermazioni di cui è criticato in questo momento, il passo successivo non può che essere una risposta politica, quindi secondo me arriveremo a una scelta. Guido, una scelta forse è già nell'aria, nel senso che adesso arriva questa agenzia che di fronte alle telecamere del TG1 Di Maio ha detto: sono pronto ad assumermi la responsabilità di fare il candidato premier del movimento se gli iscritti mi voteranno. Quindi praticamente insomma si candida ufficialmente a questo la punto. La verifica, no? Quella interna, ovvio, è chiaro, no? Cioè, quindi... Senti, invece sulla riforma costituzionale, passando a un altro tema politico questa settimana, la Camera ha dato il via libera definitivo alla riforma costituzionale, che ha al suo centro soprattutto la questione del Senato, che non viene abolito, in realtà viene trasformato. Sentiamo a questo proposito Renzi. Questa riforma costituzionale è un gigantesco passo in avanti, porta l'Italia nel futuro e credo che sia una cosa molto bella che finalmente funzioni. Sentiamo anche le opposizioni come hanno reagito. Brunetta di Forza Italia. Questa è una brutta pagina per la nostra democrazia. Il governo presente in massa, posto in piedi, direi, a significare l'esatto contrario di quello che chiedeva Calamandrei. Posto in piedi, a calpestare la nostra democrazia parlamentare. Non è una posizione di forza questa, signor Presidente, aver precettato ministri e sottosegretari. E visto che l'abbiamo citato, Di Maio, appena dopo il via libera definitivo alla riforma. È il Presidente di un Consiglio dei Ministri che è coinvolto in uno scandalo enorme che si chiama Trivellopoli. Martedì prossimo si voterà al Senato per mandare a casa Matteo Renzi. Fino ad allora ci faccia la cortesia di non mettere mano alla Costituzione, perché non è un Presidente del Consiglio legittimato, è sotto mozione di sfiducia. Non lo riconosciamo, non vogliamo ascoltare le sue chiacchiere da bar in Parlamento, siamo qui fuori per parlare con le persone e spiegare alle persone che cosa sta accadendo. Perché sappiamo che è iniziata la battaglia per quello che però sarà il referendum a ottobre, no? Che dovrà dare l'ultima parola ai cittadini su questa riforma costituzionale. Guido, ha fatto bene o male secondo te Renzi a farne quasi un referendum su se stesso, no? A questo punto ha detto se non passerà questo referendum, prima ha detto... Io credo che lui di questo si sia un po' pentito negli ultimi giorni, perché questa sua affermazione lui l'ha fatta un po' di tempo fa, sì. però poi per una serie di circostanze, le difficoltà che ci sono sul terreno, diciamo, oggettivo, delle variabili di carattere internazionale, di politica estera, le difficoltà di agganciare una ripresa forte, stabile, di rottura, e diciamo l'emersione anche di queste intercettazioni seguenti al caso delle dimissioni di un altro ministro, dopo Lupi, il caso del ministro dello sviluppo economico Federica Guidi. Insomma, tutte queste cose hanno un po' indebolito, no, in questo momento l'immagine del governo. E quindi il 9 di ottobre o il 16, insomma, o quando sarà in autunno il referendum, aver caricato di un'aspettativa tutta politica, diciamo, in fondo un sì o un no che riguarda una riforma della Costituzione su alcuni punti peraltro molto importanti, ecco, forse lui questo si è un pochino pentito, non vuole adesso che la partita si giochi con un referendum su di lui, però è un dato di fatto che con ogni probabilità arriveremo a quella data con ovviamente un giudizio anche sul sì o no nel merito delle questioni poste dal referendum, ma anche un sì o no su Renzi. Guido, abbiamo Di Maio, il file, la voce di Di Maio che dice che se lo votano lui si candida, sentiamo. Cominciamo a dire che probabilmente nel 2017 ci saranno le elezioni politiche, perché questo governo è al centro di uno scandalo enorme che si chiama Trivellopoli, ha un sottosegretario indagato 2 giorni fa. Se ci saranno le votazioni tra i nostri iscritti si deciderà il candidato premier. E se la rete la eleggerà? Beh, io mi prenderò questa responsabilità, ma siamo pronti come gruppo a prenderci questa responsabilità. Vabbè, detto insomma, prenderci, lui diciamo è il favorito probabilmente, però lui rimane ancora un po' un passo indietro. Per chiudere, Guido, che abbiamo ancora 30 secondi, non farò in tempo a far sentire le voci sulle trivelle, ho già fatto sentire questa settimana gli ospiti, sul fatto dell'astensione di Renzi, sì, prima, e poi anche Napolitano che ha detto non andate a votare, siamo per l'astensione. Il Movimento 5 Stelle ha annunciato che denunceranno il Presidente del Consiglio Renzi e il Senatore a vita Giorgio Napolitano perché l'invito esplicito all'astensione è reato. Hanno fatto bene secondo te? Dimmi solo se hanno fatto bene o male come no, cariche istituzionali Renzi e Napolitano. Hanno fatto male perché la questione divide tutto il mondo dei costituzionalisti quasi praticamente a metà. Nella Costituzione l'unico riferimento su questo tema riguarda il voto alle elezioni politiche, dove si parla di dovere civico, invece l'articolo 75 che riguarda il referendum non si parla di questo dovere, quindi la materia dal punto di vista giuridico è molto controversa. Io credo che sia un diritto anche non andare a votare, e per questo non ci si possa sentire come un cattivo cittadino, insomma, ecco. Quindi questo è quello che penso, e credo che diciamo questo nella massima libertà delle scelte, ovviamente per chi decide di andare a votare per un sì o per un no. Ognuno insomma farà quello che ritiene opportuno questa domenica. Grazie Guido Gentili. Grazie a voi. Ciao Guido, buon fine settimana. Continuano i vostri messaggi, c'è chi cita Di Battista, poi Sergio da Cagliari tra il 349-238-6666, la pagina Facebook di Effetto Notte, scegliere il candidato, la candidata premier per il Movimento 5 Stelle, dice Sergio da Cagliari, assolutamente Di Maio ha standing, quindi sarà il fisico du rôle, eloquio, credibilità, equilibrio, capacità di gestire dibattiti, ma dovrà essere designato da vere primarie aperte, un non militante. Ciao, buona serata, dice Sergio, da un non militante. Ci sentiamo a breve, continuate anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Radio 24 sulla rotta dei migranti con Papa Francesco alle porte d'Europa. L'isola di Lesbo è il capolinea meridionale della rotta balcanica. Migliaia di persone hanno sfidato il mare in condizioni di precarietà per raggiungerla. Papa Francesco, la scelta per rilanciare il suo appello alla solidarietà e all'accoglienza. Radio 24, ancora una volta sulla rotta dei migranti, vi accompagna in questo storico viaggio. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte da qualsiasi parte del mondo, qualsiasi cosa stiate facendo, siete al posto giusto nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Prima di affrontare il prossimo argomento, vi ricordo la domanda che vi ho posto questa sera: è chi vedreste come prossimo leader del Movimento 5 Stelle o come candidato premier? Probabilmente si fa il nome di Di Maio, ma ancora nessuno lo ha ufficialmente legittimato al vertice del movimento. Comunque i vostri messaggi, intanto ringrazio Federico da Modena per il suo WhatsApp molto carino, anche per la sua fedeltà. Maurizio Volpe dice che Radio Vaticana ha preso che il Cardinal Bagnasco ha smentito qualsiasi coinvolgimento della CEI nel referendum. In realtà un altro alto porporato ha detto andate a votare. E poi Sergio da Alessandria: secondo me il candidato premier dei 5 Stelle più sicuro potrebbe essere il figlio del defunto Casaleggio. Continuiamo a parlare tra poco, vi ricordo intanto quali sono le notizie più importanti della giornata. Immigrazione, l'Italia propone, l'Unione Europea il Migration Compact, Renzi esclude un'invasione, poi avverte Vienna, se si chiude il Brennero non faremo finta di nulla. Il referendum sulle trivelle, si vota domenica, anche la CEI in campo dice andate a votare. L'ira del Movimento 5 Stelle su Napolitano e Renzi, è scandaloso l'invito a non partecipare. L'assassinio di Regeni, Mattarella sottolinea non dimentichiamo, una vita orrendamente spezzata. E il New York Times lo definisce vittima del governo di Al-Sisi e parla di Francia vergognosa che firmerà lunedì con l'Egitto un contratto da $1 miliardi in armi. I rapporti tra Germania e Turchia, ne parleremo tra pochissimo. L'inchiesta di Potenza, l'ammiraglio De Giorgi dai magistrati contro di me dice un corvo. Il caso Uva, tutti assolti, carabinieri, poliziotti imputati per la morte dell'artigiano di 43 anni deceduto dopo un fermo per schiamazzi. schön charmant, denn er hatte ich in der Hand. Erdovi, Erdovo, Erdovan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdovi, Erdovo, Erdovan. Erdovi, Erdovu, Erdovan, Erdogan sarebbe una canzone satirica, questa che sentite in tedesco, che è circolata qualche mese fa sul web, ha avuto un grandissimo successo, era appunto nei confronti del presidente turco. Che cosa è successo adesso? C'è una vicenda che paradossale dir poco, insomma, diciamo paradossale, che però ci racconta molto su quelli che sono i rapporti tra la Germania e la Turchia, soprattutto in questo momento. Il governo di Berlino ha preso una decisione, ha deciso di concedere l'autorizzazione a un procedimento penale, cioè un processo, contro un comico tedesco della TV pubblica ZDF, che è Jan Böhmermann, che è colpevole di aver composto una poesia satirica sul presidente turco Erdogan, e questa decisione è stata ufficializzata, pensate, niente po' di meno che dalla stessa cancelliera Angela Merkel. Ha fatto una dichiarazione ufficiale, questa decisione è stata presa insieme anche al vice cancelliere Gabriel della Merkel, con i ministri, il ministro degli esteri, il ministro dell'interno, il ministro della giustizia, insomma un affare di Stato praticamente. In un primo momento la cancelliera tedesca aveva detto no a queste pretese di Erdogan di istruire questo processo contro questo comico tedesco, poi invece una rettifica e quindi il via libera al processo. E questa querela di Erdogan nei confronti del comico tedesco potrebbe costare a questo comico un carcere fino a 3 mesi. Uno può dire, vabbè, cosa saranno 3 mesi? Però, insomma, intanto non fa mai piacere a nessuno, anche per brevi periodi, soprattutto poi se il motivo è questo, di aver scritto una poesia satirica in un paese come la Germania. Perché? Perché questo potrebbe configurare, questa querela, il reato di offesa a un capo di uno Stato estero, che è dentro il codice penale tedesco, anche se la Merkel subito si è affrettata a dire che presto verrà abolita questa norma. Il caso è scoppiato il 31 marzo scorso perché appunto il comico ha recitato durante una trasmissione dell'emittente tedesca questa poesia in cui faceva dei riferimenti sessuali un po' grevi nei confronti di Erdogan, diceva che aveva fatto sesso con pecore e capre. Questo ovviamente non è una cosa particolarmente diciamo lusinghiera, però aveva anche parlato del fatto che Erdogan reprime le minoranze, aveva preso a calci i curdi, aveva picchiato i cristiani. E al fianco di Böhmermann si sono schierati numerosi artisti tedeschi con una lettera aperta al giornale Zeit in cui chiedevano l'archiviazione delle indagini sul comico e dicevano i suoi versi devono essere, i suoi versi satirici su Erdogan, un argomento da dibattito culturale, non certo in un'aula del tribunale. Ne voglio parlare con Antonio Villafranca, responsabile del programma Europa dell'ISPI, che è l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Antonio Villafranca, buonasera. Buonasera a voi. Bentornato. Allora, in conclusione, praticamente la Merkel in questo modo si espone al rischio di essere accusata nel suo paese di porre un limite alla libertà di satira e di espressione, piuttosto che mettersi contro il presidente turco. Ma questo è sicuramente un indice molto grave della debolezza della Merkel. E noi siamo abituati a pensare alla Merkel come a un leader assolutamente forte, decisamente amata dai propri cittadini, ma che dalla decisione un po' avventata di aprire assolutamente le frontiere, ecco, ha fatto dei passi falsi che adesso ha cercato di porre rimedio con l'accordo appunto con la Turchia. Sta di fatto che questa debolezza, questa situazione, soprattutto per quanto riguarda appunto il comico, rischia ancora di più di indebolirla. Il governo si è praticamente spaccato, è assolutamente paradossale che il ministro degli esteri Steinmeier, ma addirittura il ministro della giustizia, entrambi socialdemocratici, abbiano apertamente detto che erano contro la decisione e che hanno dovuto subire praticamente poi la parola finale che spettava appunto alla cancelliera. Antonio, scusami, ma l'errore è di aver a un certo punto deciso di aprire in parte le frontiere della Germania all'immigrazione, soprattutto siriana, oppure quella di aver stretto un patto con la Turchia per risolvere l'emergenza migranti? Ma l'errore io credo che sia sempre lo stesso, pensare che a un problema come quello delle migrazioni si possa dare una risposta univoca da parte del singolo Stato. È sbagliato quando lo Stato si chiude, ma è anche sbagliato quando lo Stato, e quello è appunto quello che ha fatto la Merkel, dice potete venire tutti, perché a cascata quello che è successo è che poi l'Austria e poi vari altri paesi della dorsale balcanica hanno chiuso le proprie frontiere, mettendo addirittura a repentaglio, diciamo, la libera circolazione e gli accordi che c'erano anche con i paesi extra UE al di fuori di Schengen. Grazie Antonio Villafranca dell'ISPI. Grazie a voi, buona serata. Ciao Antonio, buona serata a te. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, ve le ricordo molto brevemente le notizie le più importanti. Il governo italiano propone all'Unione Europea un Migration Compact, cioè un accordo su una gestione comune dei migranti, cosa che si chiede da tanto tempo. Renzi esclude che ci sia un'invasione in Italia, ma conviene, dice ci faremo sentire. Poi Mattarella che ricorda Regeni, dice non dimentichiamo la vita spezzata di Giulio in modo orrendo. Il New York Times parla di vittima della repressione del governo al-Sisi e dice che è una vergogna il silenzio della Francia, che tra l'altro lunedì firmerà un contratto da 1 miliardo per le armi con l'Egitto. Trivelle si vota domenica, c'è l'incognita del quorum, c'è in campo, dice andate a votare, il premier Renzi sottolinea non è un evento politico. Europa 24 notte. Ci colleghiamo con Lesbo, dove domani arriva Papa Francesco nell'isola greca che è diventata praticamente icona del dramma dei migranti, quindi la Lampedusa dell'Egeo, che pone le sue speranze, quest'isola, nell'arrivo del pontefice. Domani confida che si possano in questo modo riaccendere i riflettori sull'emergenza umanitaria che si protrae da mesi, come ci conferma Raffaella Calandra, la nostra inviata, è lì a Lesbo. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, buonasera. Sì, qui a Lesbo sono in realtà i primi 3 giorni che non si registrano sbarchi dopo mesi in cui sono arrivati migliaia di persone. I migranti che sono qui sull'isola sono chiusi nei campi, a cominciare dalla Moria Camp, che è quello chiuso, diventato un centro di detenzione, dove domani Papa Francesco entrerà e pranzerà insieme al Patriarca di Costantinopoli, al Vescovo di Grecia, incontrando anche molti di questi migranti, e a lui affideranno le loro speranze, le loro storie e anche la loro fiducia che in qualche modo il messaggio di Papa Francesco possa farli uscire da questo limbo in cui si trovano, perché in questo momento la Grecia sta valutando tutte le domande di asilo per decidere chi ha diritto di restare in Europa e chi invece, in base al piano che è stato stipulato con la Turchia, dovrà essere rimandato indietro. E in aiuto della burocrazia greca sono arrivati anche funzionari europei come Jean-Pierre Chembry, che abbiamo incontrato oggi proprio al campo di Moria, che è uno dei funzionari dell'ufficio europeo di supporto all'asilo. Sentiamolo. Stiamo facendo nell'isole processo dell'ammissibilità a causa dell'accordo con la Turchia. Le persone che sono partiti di già, queste erano persone che non hanno fatto una richiesta d'asilo. Quando ci potranno essere allora delle altre espulsioni? Il processo prende circa 2 settimane. Adesso siamo nel processo di fare questi interview. Ieri di già dato i primi decisioni, adesso ci sono 5 giorni dove la persona può fare un ricorso. E considerando l'alto numero di persone che ci sono e praticamente ormai tutti hanno fatto domanda d'asilo, sarà un processo molto lento. Nel frattempo restano fermi qui nei vari campi? Siamo qua oggi, in questo campo solo, siamo 60 persone. No, l'obiettivo qua non è solo di fare questo processo presto, ma anche fare questo processo nel modo corretto. Per questo siamo qua, per assicurarci che queste persone sono trattate in un modo individualmente. E domani su questo ci sarà il reportage di Raffaella Calandra. Grazie Raffaella. Ciao Roberta, da Lesbo. Grazie a te. Ciao Raffaella. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E schizziamo dal nostro portatore sano di soli di Trebi Meteo, Paolo Corazzon, che sicuramente ci porterà sole a catinelle, immagino, caro Paolo. Buon buonasera Roberto, ma questa volta davvero, sì, quantomeno per le regioni centro-meridionali si apre un fine settimana all'insegna del bel tempo, quasi estivo oserei dire, perché domenica sfioreremo i 30 gradi in molte zone del sud, ma anche appunto nell'Italia centrale. Al nord qualche nuvola di passaggio ci sarà, magari sulle zone alpine, prealpine, l'alta pianura padana, anche qualche acquazzone proprio nella giornata di domenica, ma davvero poca roba, quindi nel complesso tempo buono anche al nord. E poi ti preannuncio che fino a mercoledì, giovedì avremo sull'Italia temperature ben oltre la media. Tu pensa che ad esempio a Roma per mercoledì prevediamo una temperatura di 31-32 gradi, quindi davvero quasi estate, se non proprio estate. Prepariamo gli ombrelloni, grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te. Buon tempo a tutti, ciao, ciao. Ciao Paolo, ci risentiamo alle 22.